male e mi sembra di impazzire se ripenso ai miei domani sola e poi senza te. La notte io mi penso, la tua ombra è lì nel vento, sei lontana ma io sento che tu sei dentro me. Forse è strano ma è sincero, non l'ho detto mai davvero quello che sento in me. Stare insieme a te vuol dire giorni con un avvenire, voglia di restare ancora, ma tu sei qui con me. Quando te ne vai e rimango.